in primo piano. La notizia più gettonata nelle aperture di mercoledì 2 febbraio è la situazione in Egitto. Mubarak al passo da Dio per il sole 24 ore, le pressioni di Obama, transizione rapida. Così il Corriere finisce il regno di Mubarak, anche Avvenire, la resa di Mubarak. E così Mubarak si arrende per il Messaggero. C'è chi come Repubblica mette processo breve e battaglia, rispolverato il processo breve. Per il Giornale spogliata la nostra cronista, il braccio violento dei PM, è stata denudata e perquisita Anna Maria Greco del Giornale per la vicenda dell'articolo su Ilda Boccassini di settimana scorsa. Tra l'altro avremo ospite tra un'ora per l'intervista al direttore del Giornale, Alessandro Sallusti. Pagata anche Noemi, invece, è il titolo del Fatto Quotidiano. I soldi finiti alla mamma di Noemi da un conto intestato a Silvio Berlusconi. Per Libero, bastonato anche Frattini, che è indagato per la vicenda della Casa Monte Carlo per aver riferito in Parlamento. Abuso d'ufficio, questa è l'ipotesi di reato. Questi titoli di giornali, io voglio partire dalle due segnalazioni, l'abbiamo messa su Facebook, io appena l'ho vista non ci potevo credere e l'abbiamo commentata così. Cosa danno da mangiare in Parlamento se non pane e volpe? Insomma, il re della furbizia è l'onorevole Simeone Di Cagno a Brescia, 67 anni, del PDL, che è stato pescato da quei fotografi in Parlamento che zoomano su lui, che sull'iPad... Che cosa stava guardando? Stava guardando, scrutando qualche foto da alcuni siti di escort. L'onorevole guarda il sito Hard in aula, colpa dell'iPad, è certo, sul Giornale. Ma anche sul Messaggero, in aula a caccia di escort. Il PDL a Brescia, un errore. Insomma, si giustifica così, è stata una leggerezza, una pruderia, stavo guardando e cancellando i messaggi del mio iPad quando si è aperta una finestra e la pruderia maschile mi ha portato a fermarmi su quelle immagini di belle figliole. Ieri racconta il Giornale, Di Cagno a Brescia si è guadagnato anche il plauso di alcuni colleghi via SMS. Ridateci il porno, gli ha scritto uno. Ti faranno segretario, ha riso. Sottosegretario, ha riso un altro. Scrive il Giornale, in attesa del mattarello della moglie. E infatti Di Cagno a Brescia dice, ora dovrò vedermela con lei. È stato pescato, c'è questa foto, lui di spalle che scruta sull'iPad, iPad peraltro offerto gentilmente dal partito a tutti i deputati, c'è anche sul Secolo XIX, l'onorevole guarda le escort, mi si è aperta una finestra su internet mentre stavo scaricando la posta. Fotografato durante il giorno della fiducia a Bondi, navigava sull'iPad donato dal Popolo della Libertà, dal partito. Il contenuto era evidente, ero solo curioso, ma non intendevo utilizzare, era solo curiosità la mia, era su un sito di escort che si offrono per qualche centinaio di euro per l'intera notte. La seconda segnalazione, c'è ancora polemica sulla vicenda sparata ieri in prima pagina di Libero di Marrazzo, l'ex governatore del Lazio, che è stato fermato un controllo normale di polizia, finito poi senza multa, senza niente, era a bordo con un transessuale, questo è scritto Libero in prima pagina, che oggi ci ritorna, vietato dare notizie vere sul compagno Marrazzo, e molto dura la replica dell'avvocato di Marrazzo che viene intervistato dall'Unità, Luca Petrucci, a pagina 23, dice ora quereleremo Libero. Marrazzo è un libero cittadino, privato cittadino, non fa più politica, è tornato a fare il suo lavoro in Rai, è stato un controllo in cui chiedono i documenti, non fanno nemmeno una contravvenzione, tutto in ordine, i carabinieri non hanno avuto nulla da eccepire e ti trovi in prima pagina su Libero. È chiaro che la storia l'ha raccontata qualcuno al quotidiano, magari si voleva incastrare Marrazzo, sta di fatto che questa volta quereleremo Libero, presenteremo l'esposto alla procura perché è una vera e propria persecuzione. Dopo Boccassini, ora se la prendono con Marrazzo. L'avvocato di Marrazzo replica così a Libero. Venite, venite, il bunga bunga è di qua. Attente, sono pericoloso, non vi mettete nei guai. Così ieri Silvio Berlusconi alla cena organizzata dalla deputata del PDL Pina Castiello ironizzava e scherzava al termine di una giornata intensa dal punto di vista della politica, questo almeno ricorda il Corriere della Sera, una giornata che si può riassumere con alcune notizie. Intanto questo giallo che c'è stato su un comunicato pronti a mobilitazioni anti-PM, anti-magistrati, un comunicato che è stato diffuso da Daniela Santanchè dal partito. Poi dopo il ripensamento, dopo mezz'ora, c'è stato un equivoco e tra l'altro il Corriere sottolinea proprio pronti a mobilitazione anti-PM, ma il partito ci ripensa, è un equivoco. Tra l'altro anche Giuliano Ferrara, che è stato ormai registrato come il nuovo spin doctor, che è tornato molto alla ribalta, definito grottesco e criminale questo comunicato, quindi c'è questo giallo, tutti in piazza, anzi no. E il secondo giallo invece che viene messo un po' da tutti i giornali è una telefonata che il Foglio definisce cordiale. Per la verità tutti gli altri quotidiani definiscono tutt'altro che cordiale tra Berlusconi e Tremonti. Quella telefonata tra il cavaliere Tremonti, Francesco Verderami, a pagina 8 del Corriere. Una telefonata allunga la vita del governo, tiene formalmente in piedi i rapporti tra Berlusconi e Tremonti, rapporti che, scrive Verderami, per usare l'espressione del ministro interista La Russa, sono i rapporti che sembrano tra il presidente Moratti e l'ex tecnico Benitez. Solo che Silvio non può cacciare Giulio. Questo è il clima, secondo un virgolettato attribuito alla Russa. Secondo il Corriere della Sera, Tremonti ormai, questa è la sensazione di Berlusconi, lavora per sé, non attende altro che prendere il mio posto. Tremonti invece smentisce questa tesi, a suo avviso fomentata dalla corte di Berlusconi. Sta di fatto che Tremonti sarebbe arrabbiato molto perché la linea economica, quella di spingere per la riforma dell'articolo 41, per spingere verso un'economia più liberale, era non concordata, annunciata da Berlusconi, non è stata concordata con il ministro dell'economia. Di nuovo scintille Berlusconi-Tremonti, questo anche a pagina 9 della Stampa, il ministro all'oscuro dei piani e oggi ci sarà un chiarimento. Il ministro dell'economia, scrive Amedeo La Mattina sulla Stampa, non sapeva un fico secco di ciò che aveva in animo Berlusconi sul terreno dell'economia. Le sue proposte per lo sviluppo economico, le liberalizzazioni non erano state concordate, da qui una serie di telefonate burrascose concluse con un colloquio apparentemente riappacificatore. Dunque vedete, le versioni sono divergenti. Sul Foglio, nell'analisi che c'è di Salvatore Merlo, e il Foglio appunto, visto il ruolo di Ferrara sempre più vicino a Berlusconi, bisognerà anche leggerlo con più attenzione in questi giorni, sul Foglio viene definita cordiale invece la telefonata tra Tremonti e Berlusconi, con Tremonti che avrebbe detto a Berlusconi finalmente si torna a parlare di economia, come dire, non di altro. C'è un Berlusconi che viene annunciato dal Foglio che stasera illustrerà con maggiore precisione la linea delle proprie sviluppi economici in un'intervista al TG1 annunciata dal Foglio per questa sera, e un premier che oggi incontrerà Giulio Tremonti. Sta di fatto che questo, dal punto di vista della politica, sono i rapporti tra persone influenti del governo. Poi ovviamente sullo sfondo c'è l'inchiesta. Secondo Repubblica, nel retroscena di Francesco Bei, il terrore di Berlusconi sarebbe che cosa? Ripetere quello che è successo con il famoso avviso a comparire del 94, perché Berlusconi venerdì sera sarà a Bruxelles per il Consiglio europeo sull'energia insieme a altri 26 leader e lì, scrive Repubblica, il premier potrebbe essere raggiunto dalla richiesta di rito immediato che la Procura di Milano ha annunciato farà per questa settimana. Poi si dovrà esprimere su questa richiesta di rito immediato il giudice per le indagini preliminari. E tanto che per Repubblica Berlusconi, per evitare di essere raggiunto da questa richiesta proprio durante un vertice internazionale, potrebbe anche decidere di non presentarsi a questo summit. Poi che ha fatto ieri Barbareschi, lo abbiamo sentito ieri alla Zanzara da Giuseppe Cruciani, ha annunciato, dopo aver incontrato Berlusconi, ha detto che secondo lui ci sono delle foto, addirittura partita la caccia alle foto, a filmati girati durante le feste di Arcore, così recita Libero a pagina 8 sotto il titolo Sputtanamento, foto osè di Berlusconi nelle mani dei giudici. Questo almeno è ciò che ha detto Luca Barbareschi. Tra l'altro per la prima volta su Libero parla anche di questa vicenda Lele Mora, lo fa in una breve intervista con Alessandra Menzani. Parte da un'accalorata autodifesa, perché cosa è successo? È entrato di nuovo nella polemica perché il comune di Sanremo l'ha chiamato per gestire insomma, l'immagine del comune. L'immagine del comune si avvicina al Festival di Sanremo. E dice Elena Mora: sono furente, sono stato chiamato non dal sindaco ma dal responsabile del Palafiori per realizzare un progetto per dare un'immagine pulita alla città dopo la vicenda delle fognature che si sono rotte. Ho inventato la pupa e il secchiello. Ho messo a disposizione l'idea, i fotografi, le pagine di giornali, gli artisti, ho chiesto 100.000 euro, anche se il vero prezzo sarebbero state 300.000. E ora i comunisti parlano di Bunga Bunga a Sanremo. Poi Lele Mora parla di se stesso, dice: è l'inquisizione nei miei confronti, Cortina, Venezia, mi hanno cacciato, Vallettopoli uno che mi ha distrutto, sono stato prosciolto ma sono fallito, ora chi chiedo i danni? A Woodcock, cioè al PM Woodcock? Sono amico del Premier, che non mollerò mai, e sono tutte cattiverie su cattiverie quelle su di me. Riguardo al prestito di Berlusconi, ero in gravi difficoltà finanziarie, ma darò indietro i soldi a Berlusconi. E non è vero che Fede ha fatto la cresta a questo prestito. Parla così Lele Mora. Per la verità, i soldi sono quelli che sembrano inguaiare in qualche modo la posizione del Presidente del Consiglio. Basta leggere i vari giornali, e comincio da pagina 19 del Sole 24 Ore: quei ricchi prelievi sul conto Monte Paschi Siena sono Mariano Maugeri e Angelo Mincuzzi, filiale, che scrivono, filiale del Monte dei Paschi di Milano 2, qualche metro più là c'è la sede di Publitalia, di fronte al quartier generale di Mediaset. Tra il 2007 e il 2008 alla cassa della Banca Senese si presentano un paio di volte al mese, sempre di lunedì e venerdì, il ragionier Giuseppe Spinelli, accompagnato alle volte da Giuseppino Scabini, manager di lungo corso di Mediaset, ripetutamente sotto inchiesta da parte dei BM milanesi, e altre da Salvatore Sciascia, responsabile dei servizi fiscali del Biscione, condannato in via definitiva per le tangenti alla Guardia di Finanza. Spinelli annunciava la sua visita il giorno precedente con una telefonata. Di solito si prelevavano cifre tra i 300.000 e i 500.000 euro, una media di 800.000 euro al mese, dunque un prelievo annuo di quasi 10 milioni di euro. Giuseppe Spinelli porgeva alla cassa gli check firmati di suo pugno da Berlusconi Silvio, intestatario del conto corrente numero 1. I due, col blazer blu di ordinanza, scendevano nel caveau accompagnati da un funzionario della banca, infilavano le banconote da 100, 200, 500 euro all'interno di giacche e cappotti, vietate le valigette. Spinelli e Scabini, foderati di banconote, attraversavano la strada, guadagnavano gli uffici Mediaset. Questa è la ricostruzione del Sole 24 Ore sui movimenti del conto corrente numero 1 di Silvio Berlusconi. A che cosa servivano questi prelievi? Secondo l'accusa, a dare molti prestiti infruttiferi a favore di giovani ragazze, anche straniere. Abbastanza accertati quelli di, non so, Alessandra Sorcinelli, showgirl, avrebbe ottenuto circa sui 115.000 euro. Ma poi ora i giornali puntano anche, ed è il nuovo sviluppo della vicenda, Berlusconi, Noemi, ecco i bonifici. Torna in auge la vicenda di Noemi Letizia, la ragazza di Casoria. Paolo Colonnello parla di come, ma c'è su tutti i giornali, addirittura è l'apertura del Fatto Quotidiano, che titola in prima pagina così: pagata anche Noemi, così anche Repubblica, spunta Noemi nel conto segreto. Trovati versamenti per decine di migliaia di euro a chi? Ad Anna Palombo, che è la mamma di Noemi Letizia. E ora ovviamente gli investigatori vogliono chiedersi come mai ci sono tutti questi versamenti per la mamma di Noemi Letizia. Repubblica, con Piero Colaprico, si chiede: non è che serve in qualche modo per comprarsi il silenzio? Questo si chiede Repubblica e anche La Stampa. Un po' ovunque, insomma, c'è questa vicenda dei soldi, dei bonifici, che, come ha detto il Sole 24 Ore, addirittura sarebbero 10 milioni di prelievi in un intero anno circa, fatti sul conto intestato a Silvio Berlusconi. Molti di questi soldi poi sono finiti come prestiti infruttiferi a ragazze anche straniere. Sulla vicenda c'è da registrare anche l'indagine, la vicenda non come vicenda giudiziaria, non questa vicenda, ma risulta indagato il ministro degli esteri Frattini. Questo per dire un po' il clima che si respira in Italia. L'ipotesi di reato è abuso d'ufficio dopo che è arrivata una denuncia alla procura di Roma, dopo che Frattini si è presentato in Parlamento per parlare della casa di Monte Carlo, i documenti arrivati da Santa Lucia. e è arrivato una denuncia da parte di un militante di Future Libertà, cioè il partito di Fini, il quale, questo militante, ha sostenuto che Frattini, esulando dalle proprie funzioni, ha richiesto informazioni al governo di Santa Lucia sulla titolarità di due società offshore soggette alle leggi ivi vigenti, malgrado la pendenza di un procedimento penale presso il Tribunale di Roma. Insomma, abuso d'ufficio, la procura in realtà ha detto è un atto dovuto, è un'indagine che chiaramente, possiamo poter dire, farà poca strada, finirà un po' nel nulla. Questo per quel che riguarda l'inchiesta. Poi c'è molto anche di pagine sulla decisione, sul putiferio che è scoppiato ieri. Il giornale ovviamente lo mette in prima pagina perché riguarda una sua cronista, col titolo "Spogliata la nostra cronista". È la vicenda, l'appendice della vicenda di la settimana scorsa, quando il giornale rispolverò un vecchio fascicolo del CSM nel quale si diceva, in pratica traducendo, che Ilda Boccassini nel 1982 credo fu trovata in atteggiamenti amorosi con un giornalista di sinistra. Questo era, e quindi fu aperto un fascicolo al CSM, fu subito archiviata la posizione, ma il giornale mise in prima pagina questo e il giorno dopo Repubblica denunciò quel fascicolo. È stato chiesto al CSM dal membro del CSM Matteo Brigandì. CSM, Brigandì rischia il posto per un sospetto, è la talpa, così scrive il giornale a pagina 4, che mette appunto la denuncia di anche Anna Maria Greco, la giornalista che ha scritto l'articolo e che dice: sono stata umiliata per il mio lavoro, mi faccia entrare in camera da letto, mia moglie dorme, sono state queste frasi dietro la porta a svegliarmi poco prima delle 9, non riuscivo a capire, davanti ai miei occhi c'era una donna con la divisa dei carabinieri e altri 4 colleghi dell'arma, che succede, ho chiesto, abbiamo un ordine di perquisizione, mi posso lavare la faccia? È cominciata così una giornata da non dimenticare. Io, spogliata dai carabinieri per un pezzo sulla Boccassini. La nostra cronista racconta l'incubo: i militari hanno invaso casa, frugato ovunque, poi l'umiliazione, mi hanno fatto denudare. La donna indossava i guanti di lattice. Ho tentato di oppormi, dicevo, non ho segreti, nelle mutande come una delinquente. E il direttore del giornale, che ripeto sarà il nostro ospite alle 8:20, ovviamente denuncia quello che definisce il braccio violento dei magistrati. Insomma, il clima è questo. C'è da dire che per quel che riguarda la politica segnalo anche il ritiro di fatto dalla politica di Nicola Rossi, economista del Partito Democratico, che lascia il Senato, viene intervistato da Lina Palmerini a pagina 18 del Sole 24 Ore, impossibile dare un contributo, addio alla politica, sono stanco di dividermi tra la vita del Premier privata e il mio partito ancora senza identità. D'altronde io mi sento un nominato, un po' come tutti in Parlamento, vista la legge elettorale, aggiungo io, mi sento un nominato e per questo sento la mia indipendenza limitata. Nicola Rossi lascia il Senato, mentre Luca Barbareschi, chi lo sa, dove va? Chi lo sa? Ha detto che va da Berlusconi, poi no, non è vero, non vado da Berlusconi, al giornale, al Secolo d'Italia, al giornale dei Finiani dice rimango a Future Libertà, mentre al Corriere dice scoprirete tutto lunedì. Boh, misteri della fede. Mubarak, non mi ricandiderò. Mentre appunto in Italia ci si interroga di la politica, anche dove andrà Luca Barbareschi. In Egitto, alle porte dell'Italia, al di là del Mediterraneo, c'è una situazione davvero caotica. Mubarak, non mi ricandiderò. Per la verità, Alberto Negri racconta la cronaca di una giornata che entrerà nella storia, dicono al Cairo. Questo sul Sole 24 Ore a pagina 3, ma vi segnalo, ci sono davvero tante pagine, tanti commenti sulla situazione in Egitto, con un'intervista anche interessante, per esempio, del Corriere della Sera a Olivier Roy, vale a dire un esperto di Medio Oriente francese, che dice non sarà comunque l'Iran di Khomeini. C'è da dire che l'apparizione di Mubarak ieri ha avuto qualcosa di surreale, è apparso in TV dopo un po' di tempo. E come racconta anche Fabio Scuto su Repubblica, truccato come i leader sovietici degli anni 70, ha rotto il silenzio che durava da giorni con un messaggio registrato, è apparso con le sue 82 primavere a dire non mi candiderò più. Insomma, una frase sinceramente abbastanza incredibile, insomma, visto che la folla ora gli chiede di andarsene via subito. Uno che ha 82 anni dice non mi ricandiderò più, con 2 milioni di persone in piazza che ne chiedono le dimissioni e chiedono di andare via. Certo, è una risposta davvero un po' surreale. Non correrò per un altro mandato, desidero portare a termine il mio percorso, una transizione pacifica dei poteri, così ha detto Hosni Mubarak, che poi ha aggiunto: morirò in questa terra, ho sempre lavorato per questo paese, continuerò la mia vita fino alla morte su questa terra, poi sarà la storia a giudicare. Sguardo fisso, guance cadenti, una magrezza del volto che denuncia le sue precarie condizioni di salute, una tinta corvina di capelli che non esiste in natura, così racconta Fabio Scuto, si è presentato e poi, come al solito, nei giorni finali, nei momenti storici in cui un leader di lungo corso cade, poi è anche importante il modo in cui uno si propone, le immagini, i racconti di queste fasi davvero storiche. Tra l'altro, che la situazione in Medio Oriente sia, in tutto il Maghreb, in tutto anche il Medio Oriente esteso, sia di tensione, il Sole 24 Ore lo fa scoprire anche con la Giordania. Roberto Bongiorni racconta che anche in Giordania il re Abdallah cede alla piazza, sorpresa, scioglie il governo dopo le proteste popolari, dunque dopo la Tunisia, l'Algeria, l'Egitto, anche la Giordania sta vivendo, e lo racconta molto bene Bongiorni a pagina 5 del Sole, una situazione di tensione. Io voglio tornare alle cose italiane, perché il tema del nostro sondaggio oggi trova molto sviluppo sui giornali. Il tema del nostro sondaggio è quello della patrimoniale. È stato lanciato da Giuliano Amato come prima idea, poi raccolta da altri in varie forme. L'idea di mettere una tassa patrimoniale, colpire cioè i patrimoni degli italiani, o meglio di una parte degli italiani, i più ricchi si presuppone, per cercare di abbattere il debito pubblico. Compagni di tassa, Veltroni, Chino, Amato, nel PD gli amiconi della patrimoniale non sono un'invenzione del Cavaliere, così il Foglio. Il dibattito è diventato surreale perché adesso tutti si stanno smarcando, i grandi leader. Ieri sentivo Casini a Ballarò a dire: ma perché questo dibattito surreale sulla patrimoniale che nessuno vuole? Ma giustamente il Foglio dice: ma come nessuno? Giuliano Amato è l'ex presidente del Consiglio, Pellegrino Capaldo, che è un banchiere, è vicino alla sinistra, Veltroni al Lingotto 22 gennaio l'ha detto la patrimoniale, Pietro Ichino, senatore del Partito Democratico, che sarà nostro ospite alle 8:30, ha detto: sì, una forma di patrimoniale ci vuole. Tanto che Luca Ricolfi oggi fa un bel editoriale in prima pagina della Stampa proprio a parlare di questo, dicendo, insomma, riepiloga tutte le questioni, tutte le varie forme di patrimoniale proposte, e dice in breve: Capaldo vuol colpire i possessori di casa, Amato il ceto medio superiore, Veltroni solo i ricchi. Non voglio entrare nel merito della giustezza o praticabilità di questo genere di proposte, ma la mia è una domanda semplice: cosa pensa realmente il PD, visto che Veltroni e Ichino ne fanno parte e Amato è una delle principali personalità del centrosinistra? Ormai il problema di Bersani non è smentire, ma convincere, non è chiarire, ma farlo in modo credibile, perché ci sono due piccoli problemi di logica. Problema 1: come fa il PD a dire che non vuole la patrimoniale quando la sostengono con tanta convinzione esponenti così importanti del partito? Quindi questo è il primo problema di Ricolfi, tanto che dice, definisce la situazione avvilente, soprattutto per chi vorrebbe voltare pagina. E poi sulla patrimoniale Ricolfi dice: una misura che, anche se fosse equa, sacrosanta, efficace, inevitabilmente suscita all'elettore la domanda: ma come? È da 30 anni che tutti, destra, sinistra e centro, dilapidate le risorse del paese per conquistare voti e clientele, e ora chiedete a noi di riparare il disastro che avete provocato? Comunque, la patrimoniale, l'ipotesi della patrimoniale, anche sul PD è corrosivo staino, pagina 3 dell'Unità con la sua vignetta: ma il PD è favorevole o contrario alla patrimoniale? Dipende da cosa intendi per patrimoniale e da cosa intendi per PD. Ma sempre sulla Stampa, sull'Unità, Rinaldo Gianola, che è il vice direttore dell'Unità, invece fa un'analisi a pagina 8 del perché sì alla patrimoniale. Perché il 10% delle famiglie detiene oltre il 50% della ricchezza, questo l'ha certificato la Banca d'Italia, e dunque non dovrebbe suscitare nessuno scandalo la discussione su qualche proposta forte, come sulla patrimoniale, tassa che storicamente ha avuto belle e brutte stagioni, oggi potrebbe essere utile anche a noi. Così Rinaldo Gianola sull'Unità. Mi devo fermare con una notizia che mi ha sconvolto, la trovate sui giornali, è questa: non servivano più, massacrati 100 aschi. Questi cani bellissimi, questi cani che trainano le slitte. Sul giornale, ma anche sul Corriere, la fine dei 100 aschi che non servivano più. Sono stati usati per le Olimpiadi del Canada. E poi i turisti sono andati via, le slitte non erano più da trainare, e allora che fare? un operaio li ha uccisi uno ad uno con il coltello, 100 poveri aschi. Questo perché costa fare un'iniezione, peraltro che viene fatta nei casi in cui un cane è malato, costa $100, ma in questo caso non erano malati, stavano benissimo, ma non servivano più. E dunque i turisti non c'erano più, le slitte non erano più da trainare, 100 aschi usate per le Olimpiadi sono stati uccisi uno a uno. E ora questo operaio che li ha uccisi a uno vive gli incubi di notte e dice: voglio i danni, ho fatto una cosa orribile e ora me li sogno di notte e quindi non riesco più a dormire. Sono angosciato da questi 100 poveri aschi che ho ucciso uno per uno. E vabbè, d'altronde... magari a non farlo era meglio, no? Il GR.